Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 5 agosto, buongiorno a tutti da Antonella Cortese, un caro saluto alle persone detenute delle case circondariali dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza e ben trovati su Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che va in onda su Radio Città Fuggico, sull'Epita TV e su Teletricolore, il programma che ormai sapete tutti vuole fare da ponte tra carcere e città. Buongiorno anche a Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che come sapete sarà insieme a me e Caterina per tutto il mese di agosto a condurre questa trasmissione. Buongiorno, Ignazio. Grazie di avermi invitato per questo mese, molto, molto contento di essere di nuovo con voi. Io continuo a fare i colloqui, ci sono, vengo a trovare anche le persone che mi scrivono, però sono contento anche di arrivare così nelle camere detentive delle persone che si sintonizzano con noi. Infatti Ignazio sei veramente multitasking da questo punto di vista, tra l'altro approfitteremo di te un po' per le tue conoscenze del mondo arabo per proporre ai nostri teleascoltatori per tutto il mese di agosto un po' di musica araba, insomma ci farei viaggiare un pochino, giusto? Sì, senz'altro qualche cosa, senza togliere altre musiche, però è giusto sentire certo. Anche un po' di musica araba, bella. Bene, e io intanto continuo a ringraziare tutti quelli che ci stanno aiutando, che ci hanno aiutato. Grazie a voi, il crowdfunding ci fa essere qui. E quindi vi salutiamo e vi ringraziamo per il sostegno che ci avete manifestato e anche l'amicizia, ovviamente. E Ignazio, oggi parliamo di alcuni progetti che rendono l'Istituto Penale Minorile Beccaria un carcere aperto. Ci spieghi meglio questa cosa? Mi sembra molto interessante questa cosa che prendiamo da Sky News il 23 luglio, già qualche giorno, 10 progetti che sono stati presentati durante un convegno organizzato dalla Fondazione Francesca Rava e dal Tribunale per i minorenni di Milano. Ci sono delle idee avveniristiche, così intanto molto semplice. La ristrutturazione della palestra. Chi mi ascolta sa che cosa vuol dire andare in una palestra dove tutte le cose sono scassate o invece c'è tutto. Bisogna fare una palestra con tutte le attrezzature in ordine, che uno possa fare ginnastica, eccetera. Poi gli spogliatoi, il sistema idrico del Beccaria, quanto è importante l'acqua in carcere, dappertutto, ma in carcere una cosa terribile. Così come la creazione nella struttura penale di laboratori d'arte e arte terapia. Ma poi ci sono delle cose stratosferiche. Per esempio, va bene, gli allenamenti, il torneo di calcio, ok, ma io trovo cose tipo corsi di primo soccorso sanitario e uso del defibrillatore, corsi in collaborazione con sommozzatori e incursori come un SIP della Marina Militare, corsi di informatica, corsi di educazione finanziaria al risparmio, corsi sul cyberbullismo e i rischi nella rete. E senti, i progetti quindi sono belli, sono importanti, sono utili, ma sono tutti uniti da un obiettivo comune, ovviamente. Qual è? Ma io prendo una cosa che ha detto Maria Carla Gatto e poi ne aggiungo una mia, quella che ha detto lei, che è la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, quello di rafforzare la relazione tra dentro e fuori, tra istituto penale minorile e territorio. Questa è anche l'obiettivo di tutto il nostro progetto, Eduradio TV, fare ponte tra carcere e città. Il carcere è una realtà della nostra vita, ma io aggiungerei a questa cosa, no? L'altra cosa che interessa molto i proponenti, la formazione delle capacità di questi ragazzi, che mira a che cosa? Alla fioritura di queste personalità. Adesso vi voglio fare un esempio. Abbiamo avuto qui nel Bolognese, a Monteveglio, un assassinio di Chiara, ragazza uccisa da un coetaneo che è finito al carcere minorile. Allora, si può pensare, questo qua è un mostro, questo deve stare tutta la vita, doveva buttare la chiave. noi che siamo volontari in carcere, che siamo operatori in carcere, diciamo no, noi ci dobbiamo mettere accanto a questo ragazzo nel momento in cui lui entra in carcere e lavorare perché lui, con un cammino molto lungo, risalga in superficie dal fondo di fango nel quale è sceso per tante ragioni che dovranno essere capite. Quindi questo lavoro di rifioritura delle persone va fatto per tutte le persone detenute, ma ancora di più per ragazzi che sono minorenni. Un ragazzo di 15 anni che ha distrutto la propria vita va aiutato a ricostruirla. Giustissimo, Ignazio. Questo è un compito che noi abbiamo e dobbiamo assolvere. E intanto ti volevo chiedere, visto che parliamo di musica araba, che cosa ci proponi oggi? Allora, oggi ho pensato per Hisham e Hamza, che saluto nel caso, non è detto, che ci stanno ascoltando o attraverso la radio, attraverso l'Epida o Teletricolore, ma anche per tutti e tutte, un pezzo di Giulia Boutros, è la grande cantante libanese emergente, l'erede di Fairuz, che canta Yoman Ma, un certo giorno. Benissimo, allora ascoltiamo Giulia Boutros e salutiamo Hisham e Hamza e بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح عيونك مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما. Lasciamo la bella voce della cantante libanese Giulia Boutros per parlare di felicità umana e delle sette età dell'uomo. In effetti, William Shakespeare ha saputo rendere la storia della salute e della felicità dell'essere umano meglio di chiunque altro, con il suo discorso sulle sette età dell'uomo. Giungiamo infatti in questo mondo come neonati che gemono e rigurgitano, cito le sue parole. Attraversiamo le stranezze tipiche dell'infanzia e dell'adolescenza, passiamo attraverso l'età dell'oro della nostra mente e del nostro fisico, prima di un lento declino. Ma perché, Antonella? Non è forse così? Non è questa forse la realtà? Diciamo che fino a non molto tempo fa anche la scienza confermava questa visione della vita. Però rispetto a molte capacità si pensava che noi esseri umani raggiungessimo il nostro massimo ben prima della mezza età. L'infanzia, l'adolescenza possono rappresentare i periodi di un più rapido sviluppo, diciamo così. Ma il nostro cervello può cambiare in maniera molto positiva nell'arco di tutta la vita e alcune importanti capacità cognitive continuano a migliorare anche quando abbiamo 50, 60 e 70 anni. E anche la nostra forma fisica non segue una semplice curva con una fase di aumento, un picco e un crollo. E se da un lato un ventenne, per esempio, può essere in grado di vincere una gara di velocità, siamo sempre in tema di Olimpiadi, in molti altri sport la performance migliore potrebbe avvenire in un'età più matura, per non parlare poi dei fattori come il benessere emotivo e l'equilibrio mentale, che seguono gli schemi di crescita e calo imprevedibili. E anche se spesso rimpiangiamo la felicità della nostra gioventù, per molti di noi i giorni più felici della vita sono quelli che devono ancora arrivare però. Imparando a riconoscere un po' questi schemi, possiamo trovare modi migliori di nutrire la nostra crescita personale e abbracciare le possibilità che si presentano a ogni stadio della nostra vita. E quindi, Antonella, da un punto di vista scientifico, che cosa sarebbero le 7 età della vita e come possiamo ricavarne il massimo? Allora, le devo per forza di cose riassumere brevemente, sennò potremmo parlarne per 4 ore di seguito. Comunque, la prima fase è l'infanzia, l'età del pensiero originale e dell'immaginazione, il periodo di maggiore trasformazione nella nostra vita. Infatti non solo sviluppiamo le abilità essenziali per la sopravvivenza, come appunto camminare, nutrirci, ma impariamo anche il linguaggio e come riconoscere i pensieri, le emozioni delle persone, cosa fondamentale. La seconda età invece è l'adolescenza, l'apice della curiosità e dei rischi, e questo impulso anche che ci porta a cercare nuove emozioni, a esplorare, è favorito da un tratto spesso sottovalutato, che è la tolleranza per l'ambiguità. E gli adolescenti sono particolarmente capaci di affrontare risultati incerti ed è proprio per questo che sono in grado di adattarsi alle nuove situazioni in maniera così efficace. La terza età sono i 20 anni, i cosiddetti anni veloci, ma sono poi davvero i più felici? La parabola seguita dal nostro cervello dopo i 20 anni è altrettanto complessa e non si può semplicemente riassumere in un declino, francamente. E secondo alcuni studi sono al primo posto a livello di tempi di reazione, ovviamente, e capacità di risolvere velocemente i problemi, ma molte altre importanti capacità, tra le quali la capacità elaborativa della memoria, il riconoscimento di tratti somatici, la percezione delle emozioni e l'abilità di mantenere la concentrazione, raggiungono il loro picco massimo in età più avanzata. Poi abbiamo i 30 anni, l'età della resistenza. Se i 20 anni possono essere definiti quelli della velocità, sia fisica sia psicologica, i 30 potrebbero essere allora considerati gli anni della resistenza. Passiamo poi ai 40 anni, quelli della gestione delle emozioni e concentrazioni. Al giorno d'oggi, la mezza età è un periodo di forte stress, molto più che in passato, sostiene Lachman, uno psicologo. Le persone si trovano nel bel mezzo della loro vita lavorativa e familiare e questo può andare a pesare sulla capacità di concentrazione e sul proprio benessere, ovviamente. Passiamo alla sesta età, che sono i 50 e 60 anni, i frutti dell'intelligenza cristallizzata. Continua Lachman, nella maggior parte dei casi il modo in cui invecchiamo è nelle nostre mani ed è proprio così, abbiamo una grande responsabilità. Inoltre l'intelligenza cristallizzata, cioè la mole di conoscenze, fatti e capacità che accumuliamo durante la vita, come per esempio l'ampiezza del nostro vocabolario personale, raggiunge il suo apice proprio tra i 50 e i 70 anni. L'ultima età è quella della massima saggezza, i 70 e oltre, e capacità decisionale. Se desideriamo rimanere in salute, un'attività regolare e impegnativa è essenziale quando si attraversano e si superano i 70 anni. Allo stesso tempo, si può cominciare ad apprezzare la saggezza acquisita durante la vita e provare a metterla a frutto. Tu sei d'accordo? D'accordo. Fermiamoci qui. Cosa lanci come musica? Lancio La vita com'è di Max Gazzè, un brano del 2015. Ascoltiamolo. Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare scappare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai. Lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché è pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non rompi addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Rieccoci di nuovo insieme dopo Max Gazzè e passiamo la parola alla nostra Caterina Bombarda che intervista Germana Verdoliva, tecnico della riabilitazione psichiatrica. A te. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, do il buongiorno a nuovo volto con noi, lei è Germana Verdoliva, tecnico di riabilitazione psichiatrica presso la USL Penitenziario di Parma. Buongiorno e ben arrivata su Liberi Dentro. Ciao, grazie, grazie dell'invito. Allora Germana, ti ho presentata brevemente, però volevo chiederti la scelta di questa professione, da dove nasce, se ce la racconti tu. E allora, io faccio il tecnico della riabilitazione psichiatrica, che è un termine un po' strano, è una professione poco conosciuta in realtà, e ho iniziato per caso in carcere. Tra altre cose, per precisazione, io da un mese non lavoro più in carcere a Parma, ma lavoro al centro di salute mentale, però il dipartimento è sempre lo stesso. E nasce per caso perché io ho fatto un concorso a Parma e mi hanno proposto un lavoro in carcere a Parma, inizialmente in part time, e dopo aver girato tutta la graduatoria e avendo avuto un sacco di no, mi hanno offerto un full time e ho accettato. In realtà, per quanto mi riguarda in questo momento, io credo che sia stata un po' una sorta di svolta di vita per me andare a lavorare in carcere, perché io sono campana, sono di Castellammare di Stabia, che è un paese ad alto contenuto camorristico. Abbiamo una storia sanguinolenta di stragi di camorra e anche la mia storia personale è stata segnata da una cosa del genere. Quindi io in realtà, anche quando ero all'università, avevo rifiutato di andare a fare tirocini in carcere, sia a Nisida, che è il minorile di Napoli, sia all'OPG di Aversa, ero stata solo poche volte. E invece il carcere per me è stata una comprensione di quello che accade in realtà nella nostra terra, mi ha molto legato alle mie radici e mi ha fatto comprendere cose che anche un po' la cultura che io pensavo di conoscere, che è quella un po' campana, ho compreso una parte della nostra cultura, seppur sia una parte che fa molta paura e disprezzo, fa parte della nostra storia, assolutamente, secondo, per quanto mi riguarda. Quindi il motivo per cui sono andata a lavorare in carcere è stato per caso, poi è diventato tutto questo. E allora, Germana, nel tuo mestiere tu analizzi anche i bisogni delle persone, le istanze evolutive, a partire anche dal contesto socioambientale e familiare. Però noi sappiamo bene che il carcere è la privazione di tutto questo. Non ci sono le famiglie, il contesto ambientale è diverso, chiaramente. Quindi io ti chiedo come fai a individuare in un tempo totale di solitudine le risorse che possono essere di aiuto. E allora, quando noi abbiamo iniziato, dico noi perché faccio riferimento alla mia equip, noi abbiamo iniziato con un'equipe che faceva un lavoro prettamente consulenziale e abbiamo cominciato a scrivere delle linee guida, un po' agganciando anche quelle che hanno fatto a Firenze, sulla psichiatria di comunità in carcere. Quindi secondo questo tipo di visione e di mandato non si può tenere una persona esclusa sia a se stessa che alla propria rete. E un po' in quest'ottica qui anche l'analisi dei bisogni un po' è andata a andare un po' contro quella che era la metodologia usata finora. Cioè io telefonavo ai parenti dei detenuti e davo anche il mio cellulare, che tutt'oggi hanno, perché per quanto mi riguarda se una persona è in grado di gestire un lavoro può gestirlo anche fuori dall'orario, può anche non rispondere a qualcuno. Quindi un po' l'analisi dei bisogni inizialmente è stata costruita secondo il metodo della psichiatria comunitaria, che è quello che facciamo anche nei centri di salute mentali. Cioè si fanno delle valutazioni strumentali, diagnostiche, si costruisce la rete con i servizi esterni, si costruisce una rete informale e quella formale praticamente. Quindi noi siamo riusciti un po' a iniziare a sentire le famiglie, anche un po' andando incontro alle precedenti prescrizioni, per poi, devo dire, finire negli ultimi anni con gli stessi direttori che ci chiedevano di mediare con le famiglie. Grande aiuto rispetto a questo tipo di analisi è la rete che si crea all'interno dei servizi nei carceri, tutti i focus che abbiamo, tutte le varie equip, sia quella trattamentale che quella con i volontari. Noi abbiamo fatto anche delle formazioni con i volontari. Questo ti permette di avere delle sinergie molto più veloci rispetto a vedere una persona e farne un semplice colloquio riabilitativo, psichiatrico, oppure, perché io lavoravo anche per il SERT, oppure sulle tossicodipendenze. E secondo me un po' questa è la cosa che si può fare in un luogo di solitudine. Grazie Germana, sono curiosissima di sapere, ma questo te lo chiederò dopo la musica, anche se ci sono delle storie di vita riuscite che tu sei riuscita a portare in qualche modo a un compimento, anche con l'aiuto dell'equipe. Ma adesso lanciamo una canzone, lancerei The Killers con Human. A fra poco. Looking for the answer. Are we human or are we dancer? Bentornati sulle note dei The Killers, siamo sempre con Germana Verdoliva, tecnico della riabilitazione psichiatrica. E Germana, ti chiedevo prima della musica qualche storia di vita, se c'è qualcosa che tu hai lasciato, anche il tuo numero di cellulare, sei stata veramente, penso, una risorsa per i familiari e per le persone che seguiti, quindi magari c'è qualcosa che hai da raccontarci. E allora, in realtà un po' ci ho pensato durante questo momento di... anche perché The Killers mi piacciono anche molto come gruppo. E, allora, per quanto riguarda di storie, veramente me ne vengono tante, forse in realtà in questo mese che sono lontana dal carcere mi sono anche un po' allontanata sentimentalmente. E io le famiglie di alcuni detenuti le sento ancora. Una storia che per me è stata, che mi lega ancora, è di una persona che era ammalata di cancro, che purtroppo in questa malattia ha scoperto di essere fragile, un uomo irriducibile della camorra del casertano, quella più violenta e quella che più ha segnato la mia terra con tutta la questione della terra dei fuochi. Un uomo dagli occhi grigi e pericolosi, che dopo questa malattia ha scoperto una parte di sé che non conosceva, che era quella della fragilità, dell'essere più cauto, di comprendere gli altri, di saper aspettare e non partire. E in questo caso noi l'abbiamo preso in carico, abbiamo cominciato a seguirlo. Da lì ho conosciuto la famiglia e ho scoperto che uno dei suoi desideri era quello di tornare a parlare con la figlia con cui non si parlava da 15 anni e avere un altro figlio. Quindi io ho fatto questo percorso di accompagnamento alla maternità assistita, alla moglie di questo detenuto, andando a fare delle visite alla PMA di Parma, in maniera anche un po' così incongrua, perché non capivano perché accompagnassi questa signora, erano molto... E ho incontrato all'inizio molta difficoltà da parte dei colleghi medici o di comprendere perché questa persona volesse un figlio, addirittura ho sentito delle frasi anche molto spiacevoli. Però devo dire che poi mi hanno stupito sul fatto che hanno compreso che se loro riescono a accompagnare persone che hanno 50 anni ad avere un bambino, qual è la differenza che lo possa volere un detenuto e che sua moglie voglia avere una parte di vita con quest'altra, con il suo marito, no? E questa in realtà è una delle storie che in questo momento un po' mi vengono in mente di raccontarvi, perché non ha a che fare con la psichiatria, ha a che fare col desiderio di vivere, con l'esigenza di dire io esisto nonostante quello che ho fatto e posso anche rendere qualcosa al mondo che può essere anche migliore di quello che sono io. Perché Raffaele, si chiama quest'uomo, ci prova a raccontare la sua storia attraverso la sua ribellione, la sua testardaggine anche al tumore, è sopravvissuto a due tumori questa persona in carcere e purtroppo neanche è arrivato un altro e sua moglie tiene botta, ecco, quindi. E poi un'altra cosa che mi viene da dire è che in carcere c'è tanto amore, sembra assurdo dirlo, però c'è anche tanto, in un luogo di sofferenza si cerca un po' di sopravvivere con l'ironia e con desiderio di voler bene le persone a fianco, quindi questa è una cosa molto bella dell'umanità detentiva, ecco. Germana, guarda, mi hai fatto emozionare, non volevo più che smettessi di parlare, allora ti voglio fare un regalo. Intanto salutiamo Raffaele, gli facciamo in bocca al lupo per tutta la sua storia, faccio un regalo a te con l'ultimo brano di oggi, una persona che viene dalle tue terre, hai detto che sei campana, lui è James Senese, sicuramente lo conoscerai. Grazie. Allora lanciamo Esce Fuori. A presto, alla prossima. Ciao, a presto. Ma tutta aspettando di me. E anche oggi Liberi Dentro termina qui, ma non cambiate canale perché tra poco ci sarà Jailhouse Rock, la rubrica curata da Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguiti e da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco ed Enea Flacco. A presto! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.